grazie per questa esposizione che secondo me aveva tutto di un dramma teatrale, come si dice, un colpo di scena, perché la comparazione iniziale con Totino era sospesa e la conclusione conclude che è una opposizione fra Bergson e Plotino. La differenza fra Bergson e Plotino è che il principio plotiniano sarà immunito, non sarà obbligato di divergere, non sarà virtualmente materiale, e il principio bergsoniano finalmente era più intimamente obbligato di materializzarsi, la vita è sopra la coscienza, finalmente la coscienza sarà pura, ma la vita è necessariamente materiale, è un vitalismo bersoniano a opposito dello spiritualismo plotiniano. L'opposizione non è speculativa, è molto importante, infatti, di sempre. Grazie per questa dimostrazione, la discussione è aperta. Alors, moi, j'ai lu le texte en français. Alors, je devrais traduire le français. Non, c'est pas tout à fait, mais bon, ça va nous permettre de discuter. Voilà. Donc, deux, trois remarques. Bon, votre texte est très complexe et dénote évidemment une familiarité avec une personne qui dépasse de loin ma fréquentation du texte. Mais j'aurais comme deux, trois remarques à faire, plus des questions d'éclaircissement, peut-être, et puis. Peut-être deux, trois suggestions. Quelques suggestions. À la première place, vous essayez de décrire les langues vitales, ce qui ne semble pas très facile à déterminer exactement comment ça fonctionne. Et vous dites, alors j'ai lu la phrase, vous dites, est-il nécessaire au passé que les langues vitales ou que le pur vouloir voir le Dieu qu'il manifeste dans notre système solaire? Ça, j'aimerais bien que vous donniez quelques éclaircissements là-dessus, c'est-à-dire le fait que cet élan vital, d'une part, n'est pas l'élan vital global, tout incluant, mais celui, en tout cas, qui se manifeste dans notre système solaire, ce qui veut dire que dans d'autres systèmes, il y aurait peut-être une autre économie. Et s'il y a une autre économie dans un autre système, quelle serait cette économie? Est-ce que c'était une économie ouverte, contingente, indéterminable, comme celle qui semble être le cas, peut-être, dans notre système, mais là-dessus, vous êtes en pourparlers avec d'autres. Alors, peut-être cette question-là, juste pour vous en rendre là-dessus. Alors, la demande apporte sur la thèse de Bergson, specificità di slancio vitale nel nostro solario sistema, la possibilità di altre forme di vita, di slancio vitale, nell'altro mondo, la questione di clarificazione sulla tesi che Arno ha sommato, che è nel libro di Bergson. C'est vrai que c'est une question que Bergson. En italien, non, obligato. Est vero que s'il y a una domanda che Bergson si faccia, si trova per esempio nell'evoluzione creatrice e nelle due fonti questa idea che sarebbe dei altri slanci vitali in altri mondi e che perciò si può immaginare. Forse una vita non ancora solidificata, dice Bergson. Non significa che si possa essere una vita non materiale, questa cosa non dice Bergson mai, ma una materia, materiale. Sì, sì, non ancora solidificata, perché la materia non è soltanto la materia solida, ma anche la materia, il gas o la materia liquida. Ci sono tre stati della materia. Soltanto due cose sarebbero necessarie, dice Bergson. Prima cosa, l'accumulazione di energia potenziale, e secondo, la possibilità per canali nervosi o altri fare la spesa subita di questa energia potenziale. Sono due, queste cose sono necessarie, ma queste due cose possono forse venire rappresentate con altri, tutti altri stati della materia. È un empirismo bergsoniano che la sola vita che noi conosciamo è la vita che ha cominciato sulla Terra. Non conosciamo la vita generale, ma esiste la vita. Mais ça a quand même une incidence sur la question de la détermination de, ce, de cette source de l'invita. C'est ça un peu notre question. Si, source fondée est la parole que Bergson utilise dans une lettre au padre de Tonquédec. Parce que Tonquédec, comme altri lettori, voleva sapere. Oui, c'est ça. Si. Signore Bergson, lei è monista o dualista? Wow. Sì. Bergson non lascia Tonquédec porre questa domanda così. Questa domanda è molto troppo astratta per l'empirismo di Bergson. Bergson utilizza la metafora della fonte. È una metafora molto precisa, perché non è possibile dire che la fonte sia la stessa cosa del fiume, ma non è neppure possibile dire che la fonte sia su un altro piano di essere della fiume. Sì. Est-ce que je continue à lire avec un discours? Oui, alors à la page 4, la question de la contemplation. Quand vous dites, vous parlez du renversement de la contemplation, et vous citez cette phrase de Plotin que Bergson cite. C'est la phrase célèbre à l'effet que l'action est une ombre de la contemplation ou un affaiblissement de la contemplation. Et vous dites que Bergson ne veut renverser ça, donc il importe de considérer au contraire, en se basant sur Don Scott, sur Descartes, Schopenhauer, etc., que la contemplation des idées immuables est une interruption de l'action créatrice. Je comprends ce que vous voulez dire, mais d'un certain point de vue, Plotin ne serait pas d'accord, parce que lui, il dirait que sa contemplation est une production créatrice. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et quand vous dites ça, je me demande si Bergson ne retombe pas sur l'ancien schéma de la contemplation, où on avait d'un côté la contemplation des divinités, pure contemplation, et d'autre part le passage à l'action et à la production. Donc on pourrait se poser la question si Bergson n'a pas tort en proposant ce renversement, s'il ne retombe pas sur l'ancienne distinction aristotélicienne, par exemple, entre la contemplation et l'action. Ok ? Donc, et si je posais cette question-là, je dirais à la fois oui et non. Je dirais oui, il a tort, parce que pour Plotin, la contemplation est production, donc on ne peut pas la rabattre simplement sur la contemplation des êtres divin, si on veut. Mais de l'autre côté, oui, il a raison, parce que la production chez la contemplation productive chez Plotin, elle est enclose quand même dans un système, ce qui n'est pas le cas pour lui. Comprenez-vous? Era la domanda e la risposta. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un commentaire. Ah non, mais certo, vuoi fare la traduzione? Forse anche meglio. Ok. Allora, la domanda che ha fatto il professor Narbonne è questa. Bergson cita la frase di Plotino per cui l'azione è una diminuzione della contemplazione e opererebbe un rovesciamento, Bergson opererebbe un rovesciamento di questa posizione plotiniana sostenendo che invece la contemplazione delle idee immobili è una pausa dell'azione creatrice. E il professor Narbonne faceva invece notare che per Plotino non c'è questa contemplazione statica, ma c'è una contemplazione che è altissimamente creativa e produttiva. E quindi quando Bergson critica questa contemplazione statica, in realtà ha torto a usare Plotino, risponde più a uno schema aristotelico di opposizione tra contemplazione e vita pratica. D'altro canto, sempre secondo il professor Narbonne, Bergson avrebbe ragione a criticare Plotino perché per Plotino questa contemplazione creativa si svolge in un sistema chiuso, in un mondo chiuso. Questo lo dico io, per Plotino esiste un unico mondo, ma mentre per Bergson appunto non c'è questa limitazione di un sistema unico e chiuso. Sì, è un paradosso bergsoniano che Bergson ha sviluppato nelle sue disputazioni con matematici, particolarmente Émile Borel. Un paradosso bergsoniano dire che è di un certo modo facile fare la matematica, o almeno più facile fare la matematica di filosofare con il mezzo dell'intuizione. La tesi che si trova qui indietro è l'idea di una tendenza naturale dell'intelligenza, c'è una natura dell'intelligenza. E quando Bergson dice così, infatti è vero che pensa a Plotino, ma a Plotino quale riassumamento di tutta la filosofia antica. Vale a dire, si può leggere su questa domanda il quattro capitolo dell'evoluzione creatrice, perché cosa si tratta? Si tratta di un modello cosmologico e metafisico secondo il quale la realtà più eccellente si costituisce di idee e poi tutti i generi d'esseri sono non sono altro che degradazioni, sgradazioni su diversi livelli di queste idee. E fino a questa, così dice Bergson, nulla metafisica, questa niente metafisica, che sarebbe la materia aristotelica o il non essere del sofista di Platone, è l'interpretazione bergsoniana. Bergson rovescia infatti tutto questo modello perché secondo lui il piano superiore, le idee, è il piano inferiore, cioè la materia o il non essere, nel suo vocabolario lo spazio sono una e la stessa cosa, e nel medio si trova la realtà vera, cioè la realtà, dice Bergson, temporale e psicologicale, cioè psichica. E Bergson prova a dedurre lo spazio dalla realtà temporale e psicologica, mentre secondo lui Plotino e tutti i filosofi dell'antichità provavano a dedurre il movimento, il cambiamento dalle idee grazie al mezzo di questo spazio oppure della materia o del non essere. Une question de Ronco, près de la ville. Oui, merci. Allora, Ronco. Ma io sono brevissimo. Innanzitutto volevo congratularmi con il Ronco Fattuale per il suo italiano. Sono Giannino. Di grazie. E poi semplicemente volevo porre questa questione. Alla domanda lo slancio d'Italia avrebbe potuto non dividersi. Non si può anche rispondere che no, non può non dividersi, perché la divisione, la differenziazione è l'atto dello slancio vitale stesso. E quindi evidentemente la domanda, come dire, perde di potenza, perché l'atto del differenziarsi è esattamente lo slancio vitale. Se si prende questa strada qui, per cui lo slancio vitale è la differenziazione in se stessa, non si può allora provare a restaurare quella ipotesi che invece tu scarti, cioè se lo slancio vitale è il differenziarsi in se stesso, lo slancio vitale può essere inteso come un infinito in alto e non come, giustamente, come dice anche Levitch, come dice, direi, insomma, la tendenza maggioritaria, no? Lo slancio vitale è la finitudine, lo slancio vitale è la finitezza, la materia è il segno della finitezza, no? D'accordo. Però se io provo a intendere lo slancio vitale come l'atto stesso del differenziarsi, quindi energeticamente, potrei provare a pensare lo slancio vitale sul modello dell'infinito. E pensare sul modello dell'infinito, dopo tutto, ecco. È vero che noi abbiamo tutta una serie di, le citate, di passi bergsoniani molto chiari, no? Sullo slancio vitale che è finito, però possiamo anche ricordarci che nell'introduzione alla metafisica, quando si tratta di definire l'assoluto, Bergson è molto chiaro nel dire che per lui l'assoluto è un anfini. È un anfini di natura particolare, però è un anfini. Sì. Posso aggiungere una precisione sulla domanda molto interessante di Rocco? È una differenza tra differenziazione e divisione, cioè, perché divisione è spaziale. E la questione di Amlo mi sembra di immaginare una differenziazione senza divisione, senza divisione. Una differenziazione puramente temporale. Non è, scusa per l'interruzione. Per andare più lontano sulla questione. Ma ci sarebbero due risposte, due cose che potrei rispondere. La prima risposta sarebbe così: è vero che divisione e differenziazione sono forse due cose diverse. Anche per un'altra ragione, in biologia differenziazione non significa essere numericamente diverso, ma essere qualitativamente diverso. La differenziazione, per esempio, fra artropodi e vertebrati, nell'esempio di Bergson, è la differenziazione significa essere qualcosa di diverso, fare qualcosa diverso di altri esseri. Una trasformazione. Sì. E sarebbe la prima cosa. E secondo, è forse vero che la differenziazione sia l'atto stesso dello slancio vitale da Bergson. Al mio parere sarebbe piuttosto così, ma in Francia è questo problema a fare l'oggetto di discussioni. Ci sono degli interpreti che dicono che non è il caso, che questa è l'interpretazione deluziana, è molto cattiva, è vero che per ragioni che non sono soltanto teoretiche ma anche politiche e forse teologiche, come ho provato a dire. Ma c'è anche una diversa domanda che tiene un legame molto solido con la prima domanda, sarebbe la successiva: è l'attualizzazione, secondo Bergson, sempre uno sforzo? Cioè, quando lo slancio vitale fa uno sforzo, è il risultato di questo sforzo sempre e necessariamente un'attualizzazione, cioè una differenziazione? E questa domanda può venire posta davvero nel pensiero di Bergson, in particolare per capire le differenze tra il saggio e tra materia e memoria, e anche tra diversi testi di materia e memoria. Perché in materia e memoria, dice Bergson, da una parte che un ricordo fa uno sforzo per attualizzarsi nello spazio, ma dall'altra parte dice anche Bergson che esiste uno sforzo della memoria per concentrarsi puramente, spiritualmente su sé stessa. Perciò non è una domanda facile sapere se l'attualizzazione è necessariamente uno sforzo. È una domanda un po' diversa della tua, ma è una domanda personale importante e difficile. Va bene, con la... Grazie. Merci pour cette conférence à la fois très spéculative et puis très audacieuse. Moi, j'aurais une question sur la présentation de l'élan vital. Il y a quelque chose qui me gêne. Enfin, voilà, je vais essayer de le dire tout de suite. Pas dans ta présentation, mais je crois dans la philosophie de Bergson sur ce plan. Le fait que l'élan vital soit présenté comme comportant des tendances. C'est une thèse qu'on retrouve dans les deux sources. Il y a un texte très intéressant dans la page 115, parce que je me souviens bien, on dit ça précisément, il dit qu'il y a des tendances qui sont impliquées réciproquement dans l'élan vital avant qu'elle se diversifie. Et ce que tu montres, c'est que donc ces tendances sont présentes déjà dans l'élan vital. C'est donc pas simplement la matière qui provoque la diversification des vies. Alors premièrement, c'est complètement anti-plotinien. C'est-à-dire que jamais Plotin ne pourrait souscrire à une telle thèse. C'est-à-dire que le premier principe de Plotin ne peut pas avoir cette caractéristique. C'est-à-dire que le premier principe de Plotin, il donne ce qu'il n'a pas. Il ne peut pas y avoir actualisation de quelque chose qu'il possède déjà. C'est le principe fondamental chez Plotin. Mais alors le problème que ça pose chez Bergson, c'est que est-ce que ça ne revient pas à réintroduire dans le principe ce que Bergson conteste dans l'évolution créatrice? Il s'en prend au mécanisme de finalisme, et il dit pour ces deux théories, tout est déjà donné. À partir du moment où on dit il y a déjà des tendances qui sont données dans l'élan vital, est-ce qu'on ne réintroduit pas indirectement ce problème-là? C'est-à-dire que quelque chose est déjà donné, et donc c'est ce que tu montres très bien, c'est-à-dire que le principe est fini. Il est fini. Et dans ces conditions, est-ce qu'on ne retombe pas... Alors, comment est-ce que Plotin va concilier ça avec sa position... Pardon, personne va concilier ça avec sa position fondamentale, qui est celle d'une créativité de l'élan vital. Est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté à concilier les deux questions? Aiuta! Allora, il professore Sylvain Roux ha chiesto a François perché lo disturba, lo interpella, eccetera, come si spiega questa presenza di tendenze all'interno dello slancio vitale? Perché qual è la posta in gioco? Se ciò che va a attualizzarsi era già contenuto nello slancio vitale, allora si ha un'ontologia in cui tutto è già scritto e si deve solo svolgere, ma questo sembra andare contro l'idea di Bergson, che invece la creazione non è qualcosa che è già tutta contenuta, si dà tutto insieme e ce n'è solo uno svolgimento, ma appunto nascono cose che prima non c'erano. Ecco, quindi come si fa a conciliare in Bergson l'idea di una di tendenze nello slancio vitale e l'idea che non esiste già una totalità precostituita che si deve solo svolgere? Sì. Questa domanda anche è una domanda puramente bergsoniana e tanto importante. Direi così, la risposta si articola sull'idea del semplice da Bergson nel pensiero di Bergson. E quest'idea del semplice, secondo Bergson, è infatti un'idea che ha un legame con il neoplatonismo, con Plotino in particolare. C'è questo libro di Plotin e la semplicità du regard, quest'idea del semplice, della semplicità, un'idea plotiniana. È stato parlato stamattina del sì, Annelise è Annelise a parlarne, l'idea dell'unità che è allo stesso tempo una molteplicità. Quest'idea ha una significazione operativa molto importante nel pensiero e nelle argomentazioni di questo. Ma semplice significa qualcosa di molto precise e particolare da Bergson, che non si ritrova in Plotino, è vero. Semplice da Bergson non significa, come è generalmente il caso, indivisibile assolutamente, ma significa indivisibile secondo la quantità, perché il semplice bergsoniano si può dividere, ma non secondo la quantità. È diviso, diciamo così, è già diviso, ma non secondo la quantità. C'è l'idea da Bergson di una divisione o di una molteplicità qualitativa, è il nome della durata nel primo libro di Bergson. E perché è possibile? Perché questa cosa è possibile, perché questo semplice è, secondo Bergson, movente oppure temporale. Questo semplice e temporale o movente da Bergson non è il caso nell'idea neoplatonica del semplice, che non è temporale o movente. E questa è la di rovesciamento anche in questo caso fra Bergson e Plotino. Tutti e due hanno un'idea del semplice, ma in un caso è temporale, non nell'altro caso. E perciò si può dividere questo semplice, ma non quantitativamente, ma qualitativamente. Donde l'idea del virtuale da Bergson? Perché la tua domanda toccava anche questa domanda, ma più diffusa, la differenza tra il virtuale e il possibile, ma è soltanto una conseguenza di questo rovesciamento dell'idea del semplice.